L'anno 18, nel 22° giorno del primo mese, corse la voce nella reggia di Nabucodonosor, re degli Assiri, che egli avrebbe fatto vendetta di tutta la terra, come aveva deciso. Convocati tutti i suoi ministri e tutti i notabili, egli espose loro il suo intento segreto, decidendo egli stesso la totale distruzione di quelle regioni. Costoro furono del parere di far perire tutti quelli che non avevano seguito l'appello da lui emanato. Terminata dunque la consultazione, Nabucodonosor, re degli Assiri, convocò Oloferne, comandante in capo del suo esercito, che teneva il secondo posto dopo di lui, e gli disse: «Così parla il gran re, il signore di tutta la terra. Ecco, quando tu sarai partito dalla mia presenza, prenderai con te uomini di indubitato valore, circa 120.000 fanti e un contingente di cavalli con 12.000 cavalieri. Marcerai contro tutta la terra d'Occidente, perché hanno disobbedito all'ordine della mia bocca. Ingiungerai loro di preparare terra e acqua, giacché nel mio furore muoverò contro di loro. Coprirò tutta la faccia della terra con i piedi del mio esercito e ordinerò loro di depredarla. I loro feriti riempiranno le valli e ogni torrente e fiume rigurgiterà di cadaveri fino a straripare. E li condurrò prigionieri fino agli estremi limiti della terra. Tu dunque va e occupami ogni loro territorio. Se a te si arrenderanno, me li conserverai per il giorno del loro castigo. In quanto a quelli che non si sottomettono, il tuo occhio non mancherà di consegnarli all'eccidio e alla rapina, in ogni territorio a te affidato. Sì, vivo io e viva è la potenza del mio regno. Ho parlato ed eseguirò questo con il mio braccio. Tu non trasgredire nessuno degli ordini del tuo Signore, ma eseguiscili fedelmente secondo ciò che ti ho ordinato e non indugiare a metterli in esecuzione». Partito dalla presenza del suo Signore, Oloferne convocò tutti i capi, i generali e gli ufficiali dell'esercito assiro e contò uomini scelti per la spedizione, come gli aveva ordinato il suo Signore, circa 120.000 uomini e 12.000 arcieri a cavallo, e li dispose come viene schierata una moltitudine in assetto di guerra. Prese inoltre una moltitudine immensa di cammelli, di asini e di muli per il loro equipaggiamento, pecore, buoi e capre senza numero per il loro vettovagliamento, viveri abbondanti per ogni singolo uomo e ingente quantità di oro e di argento dalla cassa del re. Indi lui e tutto l'esercito si misero in marcia per precedere il re Nabucodonosor e coprire tutta la faccia della terra d'Occidente con carri, cavalieri e fanti scelti. Con essi si mise in cammino una moltitudine promiscua, simile alle cavallette e alla sabbia della terra. Nessuna cifra varrebbe a indicarne il numero. Partiti da Ninive, con una marcia di 3 giorni, raggiunsero la pianura di Bechtilet e da Bechtilet andarono ad accamparsi presso il monte che si eleva a sinistra della Cilicia superiore. Di là Oloferne mosse con tutto l'esercito, i fanti, i cavalieri ed i carri, verso la regione montagnosa. Distrusse Fud e Lud, depredò tutti i Rassiti e gli Ismaeliti, che si trovavano al margine del deserto a sud di Cheleon. Passato l'Eufrate, percorse la Mesopotamia, abbattendo tutte le città elevate lungo il torrente Abrona, giungendo fino al mare. Poi si impadronì dei territori della Cilicia, facendo a pezzi tutti quelli che gli opponevano resistenza, e arrivò fino ai confini di Jafet, situati a sud di fronte all'Arabia. Accerchiò tutti i Madianiti, bruciando le loro tende e saccheggiando le loro mandrie. Scese poi nella pianura di Damasco, al tempo della mietitura del grano, mettendo a fuoco tutti i loro campi. Distrusse greggi e armenti, saccheggiò le loro città, distrusse le loro campagne, e passò a fil di spada tutta la loro gioventù. Il timore e il terrore davanti a lui invasero allora anche gli abitanti della costa, quelli di Sidone e di Tiro, gli abitanti di Sur e di Ochina e tutti gli abitanti di Yemnan. Gli abitanti di Asdod e di Ascalon ebbero grande timore di lui.